Beh, Daniele. Ti conosco al microfono, ti conosco. Allora, hai visto, inconfondibile. Quello è un MC60, già lo credo. Adesso mi ha acceso e... Ah, chi c'era? Ha fatto una spaccata, non c'è nessuno. E poi sono tornato a 10 e ho provato a te. Io ho acceso adesso, per la verità, perché ero tutto il giorno lavorando. Poi sono andato a farmi la spesa da MD, qua mi ha accompagnato mia sorella. Adesso, poi sono entrato, figurati, ho mangiato alle 4:30, figurati, veloce, e poi sono uscito. Adesso sono a casa. Voglio neanche riuscire, figurati tu, proprio niente, cioè, sono stanco morto, so. Ho fatto 8, 12 ore al giorno, cazzo, gira, stavo facendo questo, c'è una cosa e l'altra. Adesso sono a casa, mi sto bevendo una birra in chiusa e così sono a posto. Lei ha lavorato contro mio, sì, esatto, in un appartamento, in pianta elettrico. Ehi, già va bene. Subare, subare. E appunto per quello, il padre subare. Stamattina sono andato al mare, ci ho bevuto due birre, due vini, amico mio, quindi. E poi sono entrato a casa, sono stato detto 2:30, una cosa del genere. Già va bene, ma dove? A Sassari? Sì, a Sassari, sì. Ehi, già va bene. L'importante è fare sempre qualcosa, dov'è? Oh, se sono a casa, a parte mi annoio, ma cosa, poi esco di testa e non so cosa cazzo fare, al bar non ci vado perché non ho giù nessuna gara di andare al bar qui vicino, a staccare 3:50 per che cosa, per guardare sempre le stesse persone, cioè, se esco con qualcuno magari, qualche amico, ci divertiamo e poi rientro a casa, non è che vado da solo e dico ciao uno, ciao all'altro, dopodiché non ti cagano nemmeno. Lo so, funziona così, almeno sono soldi risparmiati. Ah, quello già è vero, con quei soldi mi compro qualche macchina, qualche telefono, se la piglia in culo, a un certo punto, ma c'è cioè, macchina proprio, non ho nessun bisogno, c'è un 2009, quindi, me lo sistemo, mi sistemerò quel lineare, adesso il prossimo mese, mi compro il finale, me ne piazzo e me lo sistemo. Ma cosa è successo perché? Non c'è. Io già devo dire che quello che mi è stato dato era mezzo bruciato, hai capito? Come aveva agganciato la cosa, l'ho smesso. In pratica dopo 10 minuti se ne è sceso di potenza, io ho detto boh, inculato, l'ho preso e tasco qua si è bruciato il coso, quanto vuoi, dice 200 euro, e l'ho girato 200 euro, anche mi immaginavo che era già clibato già da prima quel cazzo di lineare, quindi, però adesso a me mi serve più che altro la rimettatore. Poi del lineare che c'è dentro non me ne frega niente, me lo cambio, me lo compro nuovo e glielo metto nuovo, capito? Ho capito, Antone, che sfiga. E ho quanti fatto molti? Sì, dovrebbe tornare intorno ai 500, cioè c'ho 4 finali, c'è. Quelli già pompa. Ma è bello che io non lo posso usare, lo sai con la BA27L no, 500 watt non le puoi usare, se no a parte che mi incendi il nuovo, mi brucia il nuovo filare lineare, e più mi brucia anche la carica dell'antenna. Quindi se quando lo metto a posto lo faccio provare con qualche mantova e poi me lo vendo. Non me ne vuoto, non ne vuoto nulla. Ah, cos'è? Non c'è potenza regolabile, perché è quello? Potenza unica è. No, c'ha se scappi, c'ha, hai capito? Da 50 cioè da 1 a 6. Ah, e vabbè, puoi aspettare, possiamo metterlo a retta e 50 poi lo provi. Dai, vabbè. Fino a 200 watt posso andare bene, dopodiché non posso salire, già lo sai. Lo modifico già, non ha più di 500, non ha meno 600-700 quelli che sono. L'importante è che funzioni, poi il resto si ragiona chi se lo compra, hai capito? Il lineare, se lo pensano in stato di fissa, io il centro non lo metto più di Mantova o roba del genere, mi basta quello che ho. Se ti soddisfa quella, ti va bene, sta andando bene, non c'è problema, ehi, non voglia. Lo faccio mettere a posto e poi su carico fittizio, così vediamo quanti vatti togli fuori, eccetera, eccetera. Dopodiché lo metto in vendita, è nuovo, in pratica, capito? Solo che ho sistemato e basta. Adesso vedremo un po'. Mi lascio un po' di soldi da parte, me lo metto subito a posto, e ordino i finali, gli MRF422 me ne ordino 4, me ne servono, quindi... Cavala, e costicchiamo, perché costicchiamo i finali? Cos'è, a 12 o 24 tu hai? A 24 è... L'ho immaginato, sei quella potenza. Quasi tutti sono a 24. Sì, se no non c'è bisogno di fare nulla, mica. Basta che trovo un camionista che non se ne fa più niente di un lineare 24 volts, un 550 ZG, va bene, tanto sono uguali, 550p oppure un 750, c'è un filo dentro, gli collego i carretti e a posto, sta funzionando. Capito? Ma non ci vuole molto, no? Mi tocco il coperchio e ci infilo direttamente tutto quanto, quello che c'è da infilare. L'aggancio di pelle, eccetera, eccetera. Bene, Leda, bene, Leda, e io che sono fatti. E beh, così non devo fare, fatto che mi sono 24. Aggancia e via. Posso fare anche la modifica se voglio, sta con il piede da dietro, gli metto due connettori di quelli grossi per avere la 24 volts all'esterno, lo faccio naturalmente in lineare, forse in lineare per prova, un 550, un 1300 di quelli a 24 volts, eccetera, eccetera, me lo metto sotto e me lo piloto, gli metto un watt, metto esterno e sono a posto. E io posso usare quello che voglio. Beh, così già un'altra soluzione, va bene. Io se prometto sta arrivando, Antonio, perfetto, sì. 7,26. Meglio così, dai. Già va bene. Gaba, ho visto tutto a posto. Aspetta che mi sta chiamando un attimo, se vuole, arrivo due minuti. Ehi, Antonio. Sono rientrato. Ciucucciu. Ciucucciu. E chi è? E chi vuoi che sia? Oh, ciao, bello, come va? Ciucucciu. Ah, c'è anche Daniele. Ciao a tutti. Ciao, Antonio. Così, benino, giornata più casalinga oggi, siamo usciti ieri che c'era il sole pieno, ieri e l'altro ieri erano due bellissime giornate, con un po' di brezza però, un po' di venticello però, erano più belle di oggi, dai. Ciao ragazza, ciao Napolino, vieni che ti sto arrivando, non so se me l'ho già fatta la prova che sono stato strappato la cinese. Allora, Daniele, tu sostanzialmente hai lo stesso segnale delle altre volte, un 8 e mezzo modulato, un 8 e mezzo pieno modulato, dai. Vabbè, mi sa che è più così. Sono già arrivato, solo poi c'è anche il colcio dell'Ede, la fin fine. Sì, guarda, se provi a fischiare, secondo me arrivi a tipo 8 e 3 quarti, da quasi 9, prova un po' a fischiare. Sì, sì, esatto, quando c'è, diciamo, il picco continuo del fischio, sì, quasi 9, dai, più di 8 e mezzo. Hai fatto qualche cambiamento interrogativo? Affermativo. Due metri, vabbè, qua non ci sono differenze abissali. Guarda, può darsi che abbia guadagnato, te l'ho detto, un quarto di Santiago, perché prima eri 8 e mezzo modulato, proprio massimo massimo, quasi 8 e mezzo diciamo, adesso tra 8 e mezzo e 9. E comunque dai, quel paio di decibel, uno o due decibel li hai guadagnati. Va bene, Antonello, riprendi. Sì, già li va bene a voglia, ci mancherebbe. Già va bene. Io tutta la mattina facendo un lavoro a casa di un amico, l'intanto vite, ecco, figurati, ho finito questo l'una e mezzo, le due, poi siamo andati al bar a beccare la cosa, mi ha invitata io. E poi sono entrato a casa, ho fatto un lavoro a Giovanni, ho ripassato il televisore in camera, a Giampiero, in cameretta a Giampiero, cazzo, ma quei forati di merda, cazzo. Quando li metti i tasselli, cazzo, si crepano, cazzo, sono schifo, cazzo, leggero, mai visto, cazzo. In una palazzina mi hanno fatto pagare a babbo, cazzo, sa quei soldi, ci mettono i forati di merda, cazzo, da sé, cazzo. Come i piatti che fai fuori, cazzo, tac, ti si apre, cazzo. Il cavolo, cosa sono? Foratini cinesi? Vai, Daniele. Sono foratini, hai capito, da sé, quindi non serve a niente. Come tu metti il tassello, qualsiasi il tassello lo metti, quello in gomma, cioè in plastica, eccetera, eccetera, quello che hai da sera, da rotto, quello che, no, come tu vai a spingere, cazzo, ti spacca il forattino. È come se tu prendi il forattino, prendi le, ti posso dire, di solito si usa, come si chiama, per aprirli in due, cazzo. Invece qui, questo lo apri con segreto, cazzo. Oh, e di che anno è quella casa? Quando è stata costruita, più o meno? Se mi ricordo male, intorno ai 2000, una cosa del genere. No, 2000 no, non può essere 2000. Nel 1000, adesso non mi ricordo se nel 90, ma comunque sia, la palazzina è tutta cribbanda a me. Stupido a vederla, ristrutturata neanche due anni fa, cazzo, torna tutta crattata, si spacca, cazzo, il cemento, il forattino, eccetera, eccetera. Tutta brutta magia, sembra che io, che siamo, cosa ti posso dire, che stiamo vivendo sopra una tuba sabbiosa in pratica. Aspetta un secondo, che mi sta chiamando Simone. Ehi, Daniele, c'è ancora? Ci sono, Marco, sono sempre qua. Bene, vai, anche tu stai arrivando bene, vai. Niente da dire, perfettamente, non è abbombato, Però 6-0, 6-0. Va bene, la radio perfetta. Sì, Antonello stava lamentando che sono forattini cinesi, roba terra, che non fa mettere un tassello che si spacca tutto. E che gli hanno fatto anche l'intonaco, presumo male, che se sono butta a capo dopo 2 anni o quant'è, 2 o 3 anni, boh. Gesù, ma l'ho sentito. Dipende dal materiale, sono andato a risparmio o come hanno lavorato, tanti fattori. Poi Antonello ha detto una cosa riguardo, dice, sembra di essere in una zona sabbiosa, ma lui si riferisce al terreno sicuramente, dove è stata edificata la palazzina, cioè forse sta alludendo a cedimenti, assestamenti del terreno, per cui magari la struttura ne risente. L'importante è che non abbia danni strutturali, proprio crepe in diagonale, quelle sono pericolose, ho sentito. Sottili, per tratti che le si formano, però se c'ha certe un po' importanti, allora lì è un problema. Poi quelle sono palazzine recenti, cioè adesso non si ricorda se è 90, anni 90, così fine 90, inizio 2000. E questa, vabbè, questa è roba vetusta, mi pare nel 57, forse nel 58 l'hanno completata questa palazzina dove sto io, quindi roba a materiali antichi, magari come si tocca, ecco, magari adesso stanno andando a risparmio con le palazzine nuove, ci mettono un caraccio di sabbia nel cemento e da poi mi va raddutto, ma senza scherzi, mi hai visto? Ogni tanto, tipo, non so se fosse Napoli al sud o dove, ogni tanto crolla qualche palazzina, chissà che schifezze hanno fatto in fase di costruzione, progettazione, forse più che progettazione sono i materiali scarsi. Si conferma, in economia, non hanno dato più sapere c'è vento e lì dato quei blocchetti, frattini, quello che hanno dato ultra scadente, preso a poco prezzo e rivenduto a prezzo pieno, poi come per buono. Però siccome magari certe sono palazzine anche recenti, c'è chi le ha progettate e va in galera pure, a meno che non scappino dall'Italia, dall'Europa, cioè sanno che se ne scende, se ne scende tutto, quelli devono fuggirsene in fretta pure, se invece non ne scende è tanto di guadagnato, è andata bene, gli è andata bene. Vediamo se è rientrato Antonello, no, l'ha chiamato Simona credo. Va bene, insomma non ti puoi fidare più di nessuno adesso, tutto scadendo sta. L'Italia se la sono venduta ai cinesi, tutte le i marchi automobilistici sono diventati, non so se tutti o quasi tutti cinesi. L'industria tessile, è venduta ai cinesi, prima avevamo quelle cose di moda, anche di, sai, quei marchi storici, quelle coperte tipo Lane Rossi, mi pare che non esista più niente di italiano. Stiamo vendendo tanto, Giulia, siamo messi bene, non fidati. E poi tutto un imbroglio anche con queste macchine elettriche, boh, non ci sono colonnine, sì, c'è 2 colonnine, all'una e sole, 2 a Monserrato, cosa te ne vai? Cioè devi avere la casa che non può essere condominiale così. Cioè non te la puoi caricare in strada, devi avere una villetta con la casa, con l'impianto fotovoltaico, perché sennò ti costa un bello stesso. Boh. A me sembra tutta una... Poi dice non costa non a manutenzione la macchina elettrica, poi vai a vedere quando ti si rompe qualcosa, i ricambi semplicemente non esistono e ci devi buttare la macchina, oppure sono talmente costosi, vedi la batteria, che ci devi davvero buttare la macchina, fuori di gabbo. Invece col diesel e con la benzina, qualsiasi distributore trovi, fai il pieno e fai, che ne so, 800 km, 900, e lì fai anche pochi chilometri con un carico di energia elettrica, pochi relativamente, no, che ne so, 200, ma cioè dove vai? Se sei in città ti si scarica subito. Ah beh, quello è poco ma sicuro, non è stata per... Se vuoi andare a Cagliari per dire, non ci puoi andare tutta la batteria, benzina o gasolio. Perché si è punto a scatto? Perché quello che risparmi poi il carburante elettrica, sì, e poi c'è anche la corrente, e poi arriva la molletta e scende a terra. E poi sai cos'è? Non è roba che puoi caricare con la normale spina, come credevo io, l'attacchi alla spina in garage. Non è così, va, lì vanno a kilowatt, certe batterie sono enormi, devi mettere questi speciali colonnine dentro il garage che ti ciucciano non so quanti kilowatt per ogni ricarica. Vabbè, ne è troppo acerbo ancora il mercato, però i cinesi sono furbi, perché prima loro si comprano il mercato con le auto elettriche, almeno chi si fa bindolare dall'auto elettrica, e poi però un giorno diranno adesso auto elettrica abbiamo deciso che non ne facciamo più e produciamo auto a benzina o diesel, capito? Prima si compra il mercato con i ninnoli e poi ti vendono le cose che c'erano già prima. Esatto. Tutta una pagliacciata, per carità. Poi, come hai detto tu, per trovare una corona per ricaricare e parcheggiare a casino, qui se parcheggi a casino sei costretto a prendere il mezzo pubblico, è tutta una catena, è tutto studiato, non è che dove ti parcheggi c'è una corona per ricaricare. Ci sono sei colonnine se le vuoi allenarmi, qui mi accado felice dentro. Parcheggi la macchina, ti fai fare la coppia del telecomando, carichi e ti andate gratis. Devo passare lì in via Calo Felice e devo chiedere la bolletta cartacea, perché per adesso ci stanno mandando la bolletta via email, però siccome la stampante sta invecchiando, ce l'ho da non so quando, sta cominciando a fare delle righe quando stampi. A fare pulizia testina ho provato, ma credo che sia, non ci sia speranza. Continuo a fare righe, quindi il codice QR non è leggibile. E quindi o cambio stampante, ma non ho più voglia di starci appresso a questa roba, oppure chiedo la bolletta cartacea. Va bene. Antone, stavo parlando di quella storia tua, ma tu hai detto zona sabbiosa, ma stai dicendo dove è costruita la palazzina, il terreno? Dove è costruita questa palazzina qua sotto, evidentemente non so se hanno costruito sotto qualche cosa di acqua, cosa cazzo ne so io. In pratica ogni 3-4 anni se tu passi e incominci a cazzo, tu sistemi tutto, fai, ripari tutto, muri, quello che è, dopo 2 anni si trova peggio di prima, hai capito? Sembra che sia un pezzo, cioè costruito sopra un vulcano, guarda, ti posso dire dove si perché cazzo, se tu guardi, ti faccio le foto di Giovanna del terrazzino, cioè da mettersi le mani in testa, nel caso da un momento all'altro nel cane, cazzo, hai capito? Hanno costruito male, hanno costruito, ma ti faccio le foto, guarda, te le mando, uno di questi domani, o Marco. Sembra un sito sismologico, cazzo, dove ci sono terremoti ogni giorno, quello che è. Sì, poi bisogna vedere se sono fatti male i lavori, non lo so, quello. Però secondo te potrebbe essere assestamento, qualcosa che ti. Che si abideggia la. L'assetto della. Non lo so, Antonio. Noi poi abbiamo la fortuna che non è zona dei terremoti, almeno quello. Daniele, riprendi che un attimo sento il telefono vibrare che mi stanno chiamando. Però vi chiedo, è tutto strana questa palazzina qua. Il vizio dove abitavo io, siamo stati più di. Io me sono andato da, diciamo, 26 anni da lì, non c'era una croetta nell'intonaco, figurati. Mai stata, mi ha preso i pezzi di intonaco. Dopo 7, non ti posso dire, 40 anni hanno fatto lì, l'hanno ristrutturato e tutto era a posto con la panzina, ed era fatto in coso, in cantoni, non in cose, tutto cantoni. Qua invece cazzo, boh, ogni 2 o 3 anni se va bene il cazzo, guarda, sembra che tu mi vedo da un momento all'altro, cazzo, che a me, io vado in ascensore, esco dalla porta del piano terra, cazzo, e mi trovo il ballatoio dove passo all'uscita del portone, cazzo, mi trovo giù, me lo trovo qualche giorno. E costruito male è stato, capito? E cosa devo dire cazzo a quello? A quello che ha costruito la palazzina, ormai sono passati 10 anni, lui ha altri 10 anni di garanzia e poi sono stato tutti coglioni. Ma anche l'ho visto, un sacco di aziende stanno costruendo con forattini, forattini doppi al limite, non ho più visto blocchetti in giro a me, poca gente che sta costruendo con i blocchetti o cosa, tutto forattini o cosa del genere. Parecchio, per un saluto. Avanti, buonasera. Ok, ciao Antonello, ciao anche a Daniele mi sta arrivando 7,5-8 qui a Ottava, 7,5-8 qui a Ottava, va benissimo, modulazione 5 perfetta. Ciao anche a Marco, no, è solo per un saluto Antonello, solo per un saluto. Guarda, sicuramente avevo usato forattini di terza, materiale edile, le fornaci, le produzioni che facevano forattini di prima, seconda e terza. La terza è proprio quella che costa una miseria, e le imprese fanno a risparmio, capito? Fanno a risparmio, tutto qua. Antonio mi prendi, dai, che sto scendo, che ti ho sentito solo per un saluto, avanti. Ok, non c'è problema, ciao Mario, saluto che mi hai ascoltato. Ok, sono stato fortunato da Mario questa volta. Ieri sono andato a ritirare 1028. Ho capito, è 1028, e vabbè, già va bene, come è tutto sopposato, mi stai dicendo? No, va benissimo, non sei fatto, non ci mancherebbe. Ok, tu mi stai arrivando lo stesso segnale che sta arrivando Marco, c'hai quasi 9,18, 9,20, come Marco, già va bene, dai. Ok, Antonio riprendi, io faccio quello di te perché mi stavo chiamando, che ti ho sentito da sopra, per un saluto. Benissimo, ciao Antonello, ciao Daniele, sempre se mi stai ascoltando, ciao anche a Marco. Avanti Antonello. Ciao Mari, ci sentiamo, stavi bene, salutoni, e ci vediamo quando vuoi e vediamo la cosa. Quindi già ho ritirato, quindi se vuoi venire domani mattina sono a casa. Se vuoi salire, ci andiamo lì in via Civita Vecchia o cosa del genere, ci beviamo qualcosa, tanto costa poco al circolo, non costa neanche molto, costa 2 euro, l'avevo di più, e così facciamo l'ora. Marino. Daniele, ti ascolto, un segnale di 7,5-8 qui a Ottava, va benissimo. La modulazione mi sembra un pochettino satura, mi stai arrivando, un po' satura. Probabilmente sono io. Ok, Antonio riprendi, faccio quello di no, non ce la faccio, domani sono mezzo incasinato. Devo fare un lavoretto urgente, ma qui è un lavoretto urgente, se non faccio domani poi mi incasino. Già ci sentiamo in calma, tranquillo, non ti preoccuparti. Quando c'è 2 minuti ti chiamo e andiamo dove vuoi, non c'è nessun problema. Bene, Antonio, saluto Simona, ci sentiamo, davanti, Antonio. Grazie, saluto Simona, non c'è problema. d'accordo, quando vuoi tu. Non, io sono a casa intanto. Domani sono a casa, poi lunedì devo fare un lavoretto. E poi vediamo un pochettino, non c'è problema. Avanti. Ripetitela, Itri. Un attimo, chiedo un controllo a Itri che mi sono dedicato. Dammi un controllo di segnale, Daniele, fammi una cortesia. 6, Santiago 6, Dani. E radio 5, 4, vai, 4 mezzo 5. Benissimo, ti ringrazio Daniele. La traduzione è leggermente esatta, però già si capisce, già va bene, ultima per tutto. Bene, Daniele, riprendi, io faccio quello di te, grazie, ciao. Marino. Avanti. Ciao Mari, scusate se ho rientrato, prova a fare un passaggio. Ma hai cambiato qualcosa? Esatto, ho cambiato qualcosa. Ho cambiato qualcosa che c'è tu e c'è Antonello. Tutto qui e te l'ho cambiato, perché quella che avevo prima di lettare ha fatto KO. Quel vento che ho fatto mi ha distrutto, anzi c'aveva un palo zingato, ho aggiunto un ricotto filettato, stretto col pappagallo, poi anche puntato con la salatrice, mi ha spezzato il palo dove spogli invece il filetto, poi mi ha spezzato in due e mi ha sfasciato la stella, andava benissimo, ma l'ha fatta a pesettini. Adesso sto usando l'antenna che c'è tu. L'antenna che c'è tu, che c'è Antonio, c'è Antonio, e va benissimo. Tu mi stai arrivando come Antonello, quasi 9:18, 9:20. Avanti Marco. Cappa, sì, vedevo il segnale alto. In passato arrivavi 9, roba del genere, forse 9:05, questa volta. Allora, sì, 9:10 tendente al 9:15. Quindi è tanta roba da rispetto a una volta. Aspetta, però ti faccio vedere il segnale normale, guarda. Così sono 4. Va bene, quindi tutto bene. Caspita, addirittura ti ha piegato la rotta antenna, palo e tutto, così è. Sì, sei sceso a 9:10, 9:15 sei sceso, esatto, mi ha proprio spezzato, l'antenna si è spezzato il palo, proprio la palla dove c'era il filetto, già ti mando la foto con calma, se c'è ancora nel WhatsApp, ti mando la foto, quindi me l'ha spezzato, come è caduto il palo con l'antenna me l'ha fatta a pezzettini, me l'ha fatta a pezzi. Era una stella che avevo sistemato bene e vabbè, è caduta e me l'ha spezzata. Quello dentro che ha fatto per il periodo di Natale, prima di Natale. E dunque sono deciso e ho preso questa qua, una semplice, nessun problema. Me l'ho piazzata, mi ha dato una mano e dopo ho continuato io. E già va bene, dai. Ok Marco, io ti ringrazio, salutiamo solo per un saluto che mi sta chiamando mio nipote. Saluto a mio madre, spero che stia bene. Saluto a tutti gli ascoltatori e io chiudo. Marco, riprendi, ciao ciao. Cappa Marino, riferirò. Ok, va bene, sì. Una curiosità, ma era palo telescopico o tubo innocenti? Allora, ho fatto un bel lavoro, ho messo palo zingato di acqua da un pollice, quasi 3 metri, poi sono il pezzo affilettato, ho aggiunto un manicotto stretto col pappagallo e ho messo altri 2 metri e mezzo, 2,70, uno spezzone che c'avevo, sempre zingato da un pollice, capito? E me l'ha spezzato dove c'era il filetto, proprio dove era affilettato, capito? Dove era affilettato? E allora l'ho fatto adesso ho fatto così, l'ho tolto, ci ho infilato, l'ho tagliato il manicotto, ho tagliato il filetto, ci ho infilato un tubo da un pollice sempre zingato, saldato intorno e ho aggiunto l'altro palo. In poche parole, in mezzo c'è un tubo di un pollice, pensa qualcosa in più, però non mi interessa. Poi dovrei essere lo spezzo adesso, non penso, già ti mando le foto, poi vedi anche le foto del lavoro che abbiamo fatto. Ho fatto un lavoro veramente a mano bella, non devo più salire sul tetto, perché a salire sul tetto oggi c'ho anche un po' di paura sinceramente, e ho fatto un bel lavoro, mi ha aiutato Luca mi ha aiutato, ottimo, non mi posso dire, quindi guarda, Antonello l'ha visto, ti può dire testimoniale Antonello. Ok, ci sentiamo Marco, grazie di tutto, saluto a tutti anche gli ascoltatori, quello che ti per me, dai, riprendi Marco, ciao. Yeah, ciao Marino, ciao. Vai Antonello, riprendi. Daniele? Eccomi. Marco, li metti come la prima la FIFA, che sei liscio. Niente, ciao Marino, alle prossime, buon correttiva. Niente, stavo arrivando anche qua rispettamente, dai. Niente da dire, anche a Papa ci arriviamo. Sono rientrato, sono uscito un secondo, due minuti. Comunque, un lavoro che ha fatto è veramente bello, perché vabbè, la nuvola è bene, c'è una villa, cazzo, quindi c'è una villa. C'è un buono spazio, cazzo, per poter fare il lavoro del genere, cazzo, c'è le... una cosa in acciaio, prende, gira e si solleva il palo, cazzo. Poi gira la tappata e si abbassa. Quindi così, un lucano va bene. Puoi fare anche la foto, accendere l'antenna di lì, figurati tu. Eia, comunque il vento ne fa danno, Cioè non sembra, sì, però se deve spaccare, spacca quanto c'è, tutto, anche tubo, secondo me anche tubo da... In passato ha rotto tubi, vabbè, tubi innocenti, non lo so se ci arriva a piegarlo. Bisogna vedere quanto è lungo e che antenna c'è sopra, non saprei. Marco, riattacca e sei passo. Comunque, il tubi d'acqua già ne ha piegato, non ti preoccupare quest'anno. Con tutto quello che è successo, acqua, fulmine, cose del genere, guarda, non conviene più avere antenne grosse. Questo è poco ma sicuro, sto sovrantendo. Perché a me non è mai successo, in 3-4 anni e più che stiamo durando, cioè parlavo anche in via di Trido, eccetera, eccetera, con altre cose, tu già te lo ricordi. Non mi è mai successo che mi sia arrivato un fumo, cazzo, da una parte di Ossi in orizzontale, ma mi ha preso in pieno l'antenna mia. E mi ha fatto 300 euro di danno. E mi sono dovuto comprare i televisori nuovi. Al momento, cazzo, non ci rimango secco io, e capito Simone, cazzo, perché la fatica via, cazzo, mi è venuta, cazzo, col coso. E infatti ho detto, mai più piazzare con questo tempo qui che c'era adesso, che è cambiato, per fare antenne grosse, se la può prendere pure in culo, non fate niente. Ma da ora in poi mi altro antenne, come c'era una volta in via di Trebbio, sono più tranquillo, è leggera, quando salgo posso salire quando voglio, a 60 anni con il genere non costa niente, costa me, pesa mezzo chilo, ce la metto con la mano sola. Il discorso è quello, la mano invece viene un pochettino male a pensarla da solo, ci vogliono due persone a 60 anni, perché cazzo qui col vento che tira è un casino, hai capito? Devo aspettare il cazzo momento opportuno che smetta di soffiare per infilarci il cazzo la base dentro, cazzo. È un casino. Comunque, Antonè, qua avevamo fatto proprio un bel lavoro. Sì, magari l'antenna non è molto alta, mi pare il palo è 3,70 m, perché io l'avevo accorciato un po' di più, no, per avere più robuste, 3,70 m, ed è sollevato di un metro da terra. Quindi dal pavimento al terrazzo sono 4,70 m circa, dai, più l'antenna. Però come vedi, 11 anni e mezzo, antenne di Chicchia, io sempre loderò la nostra installazione, perché l'abbiamo fatta noi, in due, no? Esatto, sì, quello è vero. La vita sì che è vero. Io me la sono passata uguale, ci sono passata anche cosa? Mi hai sentito? Quindi, io ho fatto lo stesso lavoro che ho fatto a te. Non è inciso identico, figurati. Quando l'ho installata. E quando te l'ho fatta quello che regge e... io ho capito gli altri come mai, strano che abbiamo avuto problemi con la DA27L, che ci si è spaccato, cazzo, la sabattura, la bobina, eccetera, eccetera, ma qui penso che invece di tutta l'acqua dentro, evidentemente non lo so, hanno fatto una lavoro da cazzo di cane. È strano che a me, a te e agli altri non sia successo mai niente. Tutti gli altri invece hanno portato una cosa così come l'hanno attaccata a un certo punto. Ma l'hanno piazzata invece, non lo so, perché già lo sa che c'è il, dove c'è la carica, c'è in pratica la gomma. E poi sotto c'è un'altra gomma di plastica, qui c'è una specie di, come ti posso dire, di allargamento del cerchio della bobina, in modo tanto che possa pensare con la gomma lì. Dopodiché poi mi fai il lavoro. Non è mai successa una cosa del genere. Io di quarantena ne ho avuto tre, ne ho avuto, figurati, tre ne ho avuto. Comunque secondo me quella storia della saldatura che aveva fatto Antonello Di Ossi, secondo me quella era una saldatura fredda, cioè il contatto c'era e non c'era, poi come cede, cede del tutto, basta che ci sia una micro infiltrazione di ossido, ti interrompe il contatto del tutto e amen. E per gli altri credo che fosse un problema di impermeabilizzazione. Noi l'abbiamo fatta come Dio comanda, abbiamo isolato tutto quello che potevamo isolare, poco ci mancava che gli facessimo un bagno nella gomma, dalla cima fino alla dalla punta del radiatore alla punta del radiale, ci mancava solo quello. Se ho avuto la guarda, lo spray con la silicone l'ho deposito qua nello stiro, sta tranquillo, ha fatto la basellina, ma qualcuno sarebbe durato almeno 30-40 anni con l'antenna. Una volta si usava invece il gas, come si chiama, io me lo ricordo sempre, quando mi avevo preso la Firenze 2, mi avevo andata e c'era il gas in tutti i posti, nei radiali, nello stiro, eccetera, eccetera. Il gas quello che si usava per i freni in caso delle biciclette, delle moto, capito? Cazzo, quando andava a toccarlo, era un casino, proprio che non uscivi, cazzo, ti scivolava l'antenna interna, ti scivolava. Yeah. Antonio, magari in vicinanza alla radio tua è un po' bruttina, bruttina, abbastanza bruttina, riesco a capirti però, va bene, riprendi Daniele. Aspetta, adesso sono sceso, va bene adesso? Sì, adesso è limpida, poi vabbè, per ittiri, Daniele pare ittiri ce l'hai davanti, quindi non hai bisogno di attaccare, da. Io è che sono piccolo e nero. Tu va bene, Marco, che fa capo arrivi 7, applichi positivi quasi 8. Vedete, ti pone la correlazione con la faccello, la ragava. Ma no, io non sono un sacco di modulazione, stavo dicendo Marino. No, non sei sciatto, sei col processore troppo alto, più che altro. Abbassa appena appena il processore. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso sei a posto. Sì, diciamo che eri un po' al limite come amplificazione, faceva troppo effetto stanza e poi sì, un po' era al limite come proprio amplificazione, dai. Adesso ha migliorato un po', poi sente gente di fondo che parla naturalmente. Sì, vabbè, al piano di sotto si porta presso tutti i rumori che ci sono in casa, ma io sono liscio con la radio. Non sono attaccato da nessuna parte e niente, ho mostrato un copperino, più di questo vado a zero perché ce l'ho il micro a 1. Il bello del K è che hai già i watt di serie, non hai bisogno di aggiuntivi, dai, diciamo, va bene. Antonè, riprendete, io devo staccare, dai, devo fare un po' di roba in casa e ci sentiamo quando capita. Ho sentito silenzio in tutti i canali per un po' di giorni, non ne ha più voglia nessuno, dai. Vi saluto, ciao Daniele, Antonello, ci sentiamo quando capita, dai, casomai se vi sento già entro vi do la benedizione, ciao, buonanotte. Ciao Marco, ci sentiamo, stai bene, boh. Comunque ti saluto, alle prossime, avanti. Perfetto, ok Marco, dai, grazie del QSO, buon QRT, ci ascoltiamo alle prossime se coincide, anch'io mi faccio il QRT, dobbiamo fare carichetta, e ce l'ascoltiamo alle prossime. Ciao Daniele, se stai facendo quello che noi ci sentiamo, mi capisci? La vetro sta funzionando, cazzo, meno male. È un po' la buona allora. E tranquillo, quando funziona la ventola non si blocca, meno male. Lo fa perché c'è un sacco di polvere qui, capito? Quando io apro la finestra entra la polvere là fuori, con questi lavori che stiamo facendo questi giorni. Poi si inceppa tutto ed è un problema. Ti conviene coprirlo, Antonio, e quando usare o liberi. Cosa mi occupa a fare? Me ne frega un cazzo a me. La verità. Non mi interessa più niente. Capito. Ma perché come va? Quando non va più, se la pido in culo, mi c'è il primo cassonetto, lo prendo e ce lo butto. Non vado a girarmi le palle con cosa. Tanto ormai ho visto che gli apparati costano una cazzata su internet. Ma non siamo bidoni, il discorso è quello. Quindi. Ma va bene così com'è. Mi va bene questo. Finché dura l'una, quando non funziona più. Se non ci sono io, già se lo usa Giovanna. L'antenna ce l'ha sopra il tetto, discende il cavo, discendo, in casa sua e se lo utilizza lì. Cava. E adesso come, Antonio? Più bassa la modulazione? Beh, un po' più bassa, sì. Ma se la solita un pochettino di più non succede nulla. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4 e 5, come? Adesso va benissimo, sei perfetto. E così deve stare. Perfetto, bene meta, a puntina e niente. Va bene Antonio, che qua la pappa è già pronta. Ci ascoltiamo alle prossime se coincide, dai. D'accordo, ok, alla prossima ci sentiamo, stavi bene. Buonanotte, buon tutto. Contraccambiati al 100 Antonio. Buon proseguimento, ciao ciao. Ciao ciao. Antonello, mi ascolti? Chi è? Ciao, Alberto da questa parte, vi ascoltavo mentre provo a settare una radio. Posso approfittare per un controllo? Questo è un microfono Turner che ho risistemato. Abbiamo rumore di sottofondo, c'è qualche cosa che non va? No, tutto a posto, 695 Radio 5. Non ho capito il nome d'attivo però. Alberto, ci siamo sentiti qualche altra volta. Sicuramente siamo vicini, anche tu arrivi a fondo scala. E sei anche un po' saturo, ma secondo me è la vicinanza. Probabilmente siamo veramente in linea d'aria poco distanti. Dipende da dove sei, cosa ne so io? Io sono qua a Sassari. Certo, anch'io a Sassari, io sono in zona Viadotto, diciamo, dai. Viadotto dove? Viadotti ce ne sono due. C'è quello delle dopo il quadrato e poi c'è il ponte del Rosello. No, il viadotto di su, quello che va dal monte a Prunizzetta. Che va a Prunizzetta? Ponte Nuovo, mio Antonè. Ah, vicino a Carlo in pratica. E appunto siamo vicini, io lo chiamo viadotto, ma perché non sono sassarese, capito? Voi lo chiamate Ponte Nuovo. Ho capito, sei vicino a dove abitava Carlo, più che altro, viadotto. Io sono qua a Carbonazzi, la verità. Dopo pensare i segni. Non sei nemmeno così vicino, boh, non so, sei un po' compresso, ottimo, mi sente benissimo, però pensavo o hai molta potenza sotto, non lo so, insomma niente di particolare, ecco, era giusto, ti davo un riscontro lievemente compresso. E vabbè, se questo turner mio invece non fa fischio, non gracchia, che è il suo problema, gli ho rifatto un po' di saldature, mi sembra già che ho risolto. Guarda, adesso c'è il suo controllo dell'amplificazione, così sono verso il... Adesso sono a metà e ora torno al massimo, dimmi se è accettabile così. Guarda, come amplificazione la verità l'hai abbassata del sollevata, non mi piace tanto la verità come amplificazione, è strano, perché non amplifica molto. Aspetta che... c'è anche sull'apparato però, ok. Questo ora l'ho sollevato dall'apparato, com'è? Secondo me che deve avere dall'apparecchio. Che apparecchio è? Un attimo. Beh, qua è buono di radio, però è anche vicino. 9+20, non è fondo scala comunque, 9+20. È un President Jackson la radio, ma con l'altro microfono va benissimo. Piuttosto sotto, Marco, da questa parte. Ben sentito. Signor Antonio, io ci sono e non ci sono, sto facendo un po' roba in cucina, un po' roba in bagno. Dicevo, mi sembra di sentire leggermente sotto come un effetto vibrato, tipo qualcosa relativo all'alimentazione, ma non sono sicuro. Antonio, tendi l'orecchio. Diciamo che vedo sotto, che cazzo tendo l'orecchio? Uia, per carità. Ormai ho 60 anni, Marco. L'orecchio di prima non ce l'ho più. Adesso fa 3-4 anni c'è la prostata, ce l'ha ormai, quindi. Ma con quella posso usare più, capito? Ehi, ci rottamano, fra qualche anno ci rottamano. Bisogna fare il testamento, Io a chi le lascio questa immensità di roba elettronica che c'ho a casa? Cosa ti posso dire? Lasciamo tutto come si chiama, non ti posso dire. Ai giovani. Tanto io lascio tutto a Giovanna. Quindi quando non ci sarò più io, Giovanna sale su, si prende il cable, si prende il lineare, l'antenna, quello che c'è, anzi si prenderà anche la mansarda, non sono andato, quindi verrà a abitare qui, lei magari la figlia scende a abitare giù, quindi è a posto, fa 13. Interrompo un attimo, lo sento anch'io il mio rumore vibrato quando aumento l'amplificazione, mi viene anche il dubbio che il turner abbia la batteria scarica, che questo va con la batteria a 9 volt a bottoni, no? Potrebbe essere anche quello, dai, vabbè, adesso ci rilavoro un pochettino, niente, grazie per i controlli e buona serata a tutti. Con tu il microfono, però se c'è la batteria, se c'è la batteria vecchia scarica, è logico che l'amplificazione esce a metà. Vedete, sento a metà come amplificazione, la verità si dica, quindi. Potrebbe essere, ora ne cerco una nuova se ce l'ho. Dai, grazie ancora, 73 a tutti. E comunque è la batteria, perché adesso è uscito più forte, ma per 15-20 secondi, non di più. Hai fatto una pausa, com'è? E c'è uscito più forte, quindi cambiati la batteria dove il vostro, vedrai che amplifica molto di più. Dai, se ci sei tra un minuto la piglio e la cambio. Già sono qua l'ascolto, non c'è problema. Marco. Io, per esempio, questo mic non ha lo sportellino per la batteria. Questo purtroppo lo devi smontare, levare la vita, eccetera. Per quello metto sempre Energizer o Duracell, in modo che durino nei secoli dei secoli. Se no, se metti batterie, quelle dei supermercati non durano da Natale a Santo Stefano, devi stare sempre apri e chiudi, capito? Ho capito, non ti preoccupare, che mancherebbe. I microfoni purtroppo sono così. Beh, tutti no, per esempio le M95 ha lo sportellino, le M5 lo sportellino, qua invece devi aprire fisicamente il microfono. Com'era con la static? Con la static avevi viti da togliere, era una palla, E poi la timbrica della static a me non è mai piaciuta, di quella static. forse qualcosa da tavolo andava meglio, però mi dicevano è brutta, è acuta, è metallica, alla fine non capivi a che distanza dovevi modulare, non amplificava poi tanto, ma sai perché? Perché più alto se ne andava tutto in toni medio-alti e come che non pompasse, ecco, mi mancavano i bassi, sembrava che non amplificasse. K. Io sono qua con una batteria nuova, vediamo se è cambiato qualcosa. Peggio. Addirittura peggio. Bravo, ma sembra che sei in un effetto soft, hai capito? Ce l'hai presente? Scusa, adesso ci collego il suo microfono palmare, così capiamo quanto dipende dalla radio e quanto dal microfono. Questo passaggio era buono, Antonio, da me non è così malvagia. Certo, io l'udito non è più quello di una volta, non ho l'orecchio da direttore d'orchestra, ecco. Però l'ultimo passaggio in particolare mi sembrava migliore. Boh, sembra che ci abbia una specie di, cosa ti posso dire, di problemi di alimentazione, secondo me. Se ne scende l'alimentazione e scende l'audio, non lo so. Allora, questo è un passaggio col suo dinamico da palmo standard dell'apparato. Sì, questa è una modulazione molto contenuta di un mic normale, però io ho la ventola qua che mi disturba, aspettate che stacco tutto qua, mi disturba l'audio a me la ventola, aspetta, vai Antonio. Io adesso quasi manco lo sento, figurati tu. Qua, niente, questo è il suo mic col diciamo l'amplificazione del microfono che è sulla radio a manetta e basta, non dovrebbe essere uno schifo, la radio nasce così. Ecco, adesso sì, comunque Antonio ha ragione, la radio non è proprio limpidissima, è una radio normale, è tenente un po' a bassino, diciamo abbastanza contenuta, ecco, come modulazione, come fosse un omologato, ecco, un omologato. E quando li togli dalla scatola sono molto molto stretti di potenziometro interno, capito? Vabbè, capibile comunque, niente di che. Antonè, non mi dire, se no abbasso io, se sono troppo forte io, prova, ecco, abbasso io, ho staccato tutto per il resto, così abbiamo le modulazioni pari, ecco. Sì, ma se abbassa per l'audio siete pari, sì. Ma può darsi che non sia un problema di batteria, Antonè, magari è qualcosa relativo all'alimentazione, non so, un po' di qualcosa di RF, non te lo so dire. E appunto per quello te lo sto dicendo, non c'ha questa, cioè non c'ha questa amplificazione, il microfono amplificato, il discorso è quello lì. Oh, questa è la radio come viene venduta, un Jackson senza modifiche, col suo microfono, con la potenza sua, che non so manco quanto escano questi Jackson, sarà 10 watt, non lo so, in AM, e diciamo che se l'hanno costruito così era accettabile, ecco, immagino. È nuovo tipo, interrogativo, c'è un Jackson nuovo tipo o la versione anni 80-90? No, il vecchio, assolutamente, il Jackson originale.